Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato. Quando parliamo di trasporto delle merci, parliamo di molteplici modalità. Strada, mare e ferrovia spesso si incontrano in forma combinata, permettendo di ottimizzare al meglio le caratteristiche di ogni diversa tipologia. L'intermodalità, grazie all'innovazione e alla tecnologia, ha un ruolo centrale nell'efficienza logistica. Di questo si parlerà a Roma il prossimo 17 maggio, nel corso di un convegno che farà il punto sulle migliori soluzioni per ridurre l'impatto dei trasporti sull'ambiente, sul traffico e sulla sicurezza, e per migliorare la qualità dei servizi. Una delle soluzioni per raggiungere questi obiettivi è rappresentata dagli ecocombi, i veicoli fino a 25 metri, che in molti paesi europei sono già una realtà. Salve a tutti, da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. E come avete ascoltato dalla nostra scheda iniziale, ci occupiamo oggi di un tema molto importante per il mondo del trasporto, sia del trasporto merci che del trasporto passeggeri. Parleremo di intermodalità, parleremo della possibilità di far viaggiare merci o persone attraverso più modalità di trasporto, come ad esempio la gomma, gli autobus, i veicoli pesanti, il treno, la nave. Di tutto questo parleremo oggi in compagnia del nostro ospite, che è Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Buon pomeriggio, presidente, grazie per essere con noi. Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. L'occasione è un convegno che Anita ha organizzato la prossima settimana a Roma, un convegno su un sistema particolare che si chiama Ecocombi. Ci può spiegare di che cosa si tratta? Si tratta praticamente delle possibilità, delle nuove dimensioni e pesi che la comunità europea ha già deciso e che prevedono per il semimorchio normale una possibilità di allungamento dagli attuali 13,60 a 15 metri, perciò tutto il complesso veicolare sarebbe 18 metri, o nella combinazione di un autotreno, ossia motrice più rimorchio, di andare addirittura a 25,25 metri. L'Italia in questo periodo di sperimentazione si è basata sul cosiddetto P18, che prevede appunto il semimorchio più lungo, però abbiamo visto che gli altri paesi comunitari, come tutti i paesi nordici, come la Germania, il Benelux, la Danimarca, i paesi scandinavi, ma anche la Spagna, che si sono orientati più sul modello dell'ecocombi, che prevede la possibilità di avere una motrice con piano di carico di 7,80 m più un semimorchio tradizionale di 13,65. Ecco, tutte queste nuove dimensioni di cui ci sta parlando e che dovrebbero essere introdotte anche appunto nel sistema italiano, così come ci diceva lei, sono introdotte in alcuni paesi europei, come si collegheranno con gli sviluppi della intermodalità, e cioè della possibilità di far viaggiare poi questi veicoli sia sui treni sia sulle navi? Infatti questo è importante, perché tanta gente ha paura di questi nuovi complessi modulari. Bisogna però considerare due aspetti: che questi due complessi modulari più lunghi, per prima, hanno un impatto ambientale molto favorevole, perché riducono le emissioni di CO2 del 30%. Secondo, comunque dovrebbe essere possibile che viaggino solo su certe strade e autostrade che collegano proprio gli interporti e i terminali ferroviari, perché sono veicoli anche molto adatti per fare le trazioni terminalistiche dell'intermodalità ferroviaria o marittima, perché le unità di 7,80 che va sul treno o del container 40 piedi possono venire trasportato con un veicolo solo stradale, quindi si abbattono i costi terminalistici di queste. Quindi prenderebbero in pratica il posto di un container su un treno o su una nave. Ecco, invece, quali potrebbero essere le problematiche legate alla sicurezza? Cioè, le infrastrutture italiane sono pronte per questo tipo di veicoli? Ma per prima cosa noi proprio nel convegno vogliamo dimostrare, con delle testimonianze degli altri paesi europei, che in questi 5 anni di sperimentazione non c'è stato nessun incidente riguardante questi veicoli, ma hanno tutti avuto una impatto zero sulla circolazione stradale, i veicoli comunque hanno lo stesso raggio di curvatura con delle tecniche di curvatura dei mezzi e ovviamente bisogna considerare che questi veicoli non entreranno mai in città ma sono solo destinati sulle grandi, arterie, certo, stradali, per i trasporti e così via. Continuiamo a parlare di intermodalità, ci sono due provvedimenti che sono molto attesi e che secondo appunto le ultime dichiarazioni da parte degli esponenti di governo dovrebbero essere ormai addirittura di arrivo in questi giorni, che sono il ferro bonus e il mare bonus, cioè due provvedimenti che dovrebbero consentire il trasferimento modale delle merci dalla strada alla ferrovia nel primo caso e al mare nel secondo caso. Ecco, a che punto siamo con queste due novità? Che bastano, servono alcune giornate, settimane che tecnicamente possono venire erogati i contributi, che ricordo che Anita ha sollecitato da tempo, siamo proprio stati noi a proporre al governo di switchare certi contributi su questo tipo di contribuzione perché permette appunto di far passare più merce dalla strada all'autostrada, cosa voluta da tutti quanti, noi siamo ben favorevoli se si riescono a trovare delle forme di questo spostamento modale. In che cosa consistono in pratica questi contributi? Praticamente sono dei contributi che in base alla lunghezza dei chilometri per i quali un automezzo viene o trasportato via ferrovia o via mare, l'armatore piuttosto che il vettore ferroviario prendono i contributi dallo Stato che dipendono comunque dalla lunghezza. C'è l'impegno che la ferrovia o l'armatore marittimo poi travasi una volta il primo caso 50%, il secondo caso 70% all'effettivo utente che siamo noi trasportatori. Noi abbiamo chiesto che i contributi andassero al 100% agli utenti perché siamo noi che decidiamo se prendere la ferrovia o la strada o la nave, però purtroppo tecnicamente ciò non è stato possibile, però speriamo che questi contributi prima o poi ci arrivino. Certo, anche per favorire questo trasferimento modale che è atteso da molti. Quali sono invece le aspettative sul mercato del trasporto? Ormai dovremmo essere fuori dalla crisi economica e questo dovrebbe in qualche modo riflettersi anche sul trasporto delle merci. Ma infatti si vede che già dall'anno scorso di nuovo vediamo un incremento dei passaggi autostradali del mezzo pesante, non abbiamo ancora raggiunto il livello di traffico commerciale sulle strade e autostrade degli anni 2008 e prima, siamo un po' sotto, però ogni anno è aumentato, questo è un buon segno che l'economia incomincia a tirare, soprattutto si vede un buon andamento per quanto riguarda l'export dall'Italia, è un po' calma ancora la domanda domestica e nazionale, però riteniamo che anche in questo caso quest'anno si avrà un buon incremento e questo è un bene senz'altro per l'economia. Noi vediamo appunto che l'indicatore di come sta andando il trasporto merci è sempre un indicatore della crescita del PIL, del posto di lavoro e dell'economia in generale. Certo, ci avviciniamo al G7 dei trasporti, l'Italia ospiterà a fine giugno in Sardegna questo importante avvenimento che vede riuniti tutti i ministeri e tutti i ministri dei trasporti dei paesi del G7 appunto, momento in cui di solito un paese mostra le sue eccellenze, le sue peculiarità. Ecco, se lei dovesse mostrare ai ministri del G7 un'eccellenza nei trasporti italiani, cosa mostrerebbe? Senz'altro dimostrare che l'Italia negli ultimi anni, grazie anche all'intervento del governo, del Ministero dei Trasporti, ha recuperato in termini di importanza per la logistica italiana. Dobbiamo sempre considerare che l'Italia nel Mediterraneo può essere visto come un molo gigantesco con molti porti, però per questo tutti i porti italiani possono diventare proprio il molo di attracco delle navi che arrivano per tutta la merce che va dall'Europa verso l'Europa. L'Italia negli anni passati per varie problematiche anche normative e così via dei porti italiani ha perso in questo mercato, sappiamo che la merce ormai attracca più nei porti nordici, tra Amsterdam, Rotterdam o Amburgo, bypassando i porti italiani, questo con la riforma dei porti è stato fatto molto e già si nota una buona crescita dell'attività portuale italiana. Si sta lavorando adesso bene ancora sui collegamenti dei porti con il retroterra con l'Europa e questo senz'altro per l'Europa è stato un segno di vitalità dell'Italia, spero che si vada avanti. Io spero che si riesca a portare avanti questa idea che la logistica del paese può essere un fattore di sviluppo, creazione di posti di lavoro, e l'Italia ha tutta la possibilità di esportare la propria logistica, gli operatori ci sono, noi siamo pronti, se lo Stato ci dà una mano in organizzazione, in diminuzione di burocrazia e così via, siamo senz'altro capaci di competere con l'Europa del Nord, che in termini logistici purtroppo negli anni passati era più brava. Bene, termina qui anche questo spazio dedicato al mondo dei trasporti e della logistica. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite di oggi, Thomas Baumgartner, presidente di Anita. Il nostro appuntamento, l'appuntamento con Container, ritorna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto a tutti da Massimo De Donato. In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Auto.